Luoghi d'arte. Alcuni degli edifici più belli d'Italia dal punto di vista architettonico non sono solamente le chiese o i palazzi o i grandi castelli o le ville, ma ci sono anche gli ospedali. Gli ospedali, soprattutto quelli che si sono conservati dai secoli passati. In particolare uno a Roma è una meraviglia del 1400. Si tratta dell'ospedale di Santo Spirito in Saxia. Questa parola deriva dal fatto che quell'ospedale venne fondato dai sassoni, cioè era il luogo nell'alto medioevo dove arrivavano i pellegrini dai paesi del nord dell'Europa, in particolare dall'Inghilterra o dal nord della Francia. Erano i sassoni e quindi trovavano un punto di ristoro e rifugio vicino alla Basilica di San Pietro, perché si trova ancora oggi questo ospedale appena oltre il ponte, all'inizio della strada che porta al Vaticano, quindi era una logistica perfetta. Si facevano questi luoghi perché le persone facevano centinaia di migliaia di chilometri per arrivare a Roma e arrivavano spesso malati e bisognosi di cure, e quindi è cominciata una lunghissima storia. Nella metà del 400, dopo un ennesimo incendio, Papa Sisto IV della Rovere, il grande papa della Cappella Sistina, tanto per intenderci, decise di far ricostruire l'ospedale nello stile del tardo 400 romano, per cui ancora oggi noi vediamo questo meraviglioso edificio. In passato, tra l'altro, era completamente affrescato da tutti i grandi pittori attivi a Roma nella fine del 400, e quindi si capisce molto bene come appunto la cura del malato fosse una cosa molto importante. Il malato doveva essere anche circondato dalla bellezza. Questo è un concetto che forse a noi sfugge, l'idea che ci sia un luogo bello, e si trovava appunto, pur in una condizione terribile, circondato da opere d'arte, da affreschi e da architetture di primissima qualità.